Quali sono i cambiamenti che hai notato a Nuoro nell'ambito dei diritti civili e di genere? Allora, è stato o è un percorso alquanto difficile e articolato. Io ho individuato in città una sorta di spaccatura tra il vissuto e il detto. La sensazione nel dialogo, nella dialettica, nel confronto è che da parte della comunità norese ci sia una grande apertura sia per quanto riguarda i diritti civili e sociali. Poi nella pratica di tutti i giorni ho potuto riscontrare alcune resistenze, alcune che derivano più che altro dal tipo di educazione ricevuta, cioè sono delle riserve. Distingo, per quanto riguarda i diritti sociali, c'è una sensibilità politica molto alta. La città, i cittadini e le cittadine riconoscono che si ha diritto a vivere in modo qualitativamente elevato, che è giusto che le povertà vengano, non dico sconfitte, ma comunque ridotte al minimo, che gli aiuti sociali alle fasce sociali più deboli, giusto che ci siano. E c'è molta attenzione rispetto, diciamo, ai soggetti deboli, alle povertà. Da questo punto di vista ho potuto rilevare, quando si fa raccolta fondi, una grande generosità da parte dei nuoresi. Contribuiscono in modo abbastanza serio tutte le classi sociali, ognuno per quanto può. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto dei diritti civili, è più complessa la questione da affrontare. Io in questi ultimi anni, un po' per il ruolo che ho rivestito di consigliera comunale, per incontri che proprio nel ruolo ho avuto con le persone LGBTQ, ho notato che ci sono molte resistenze, molte riserve, sebbene a Nuoro ho potuto verificare che ci siano un certo numero di famiglie e di persone che già vivono collocate in quella dimensione. Sono persone che omosessuali, persone che hanno una propria identità di genere che non intendono pronunciare, che comunque non si riconoscono nei ruoli maschili e femminili che la tradizione, la cultura ci hanno trasmesso. La difficoltà sta nel fatto che poi questa dimensione non esce fuori nel dialogo, nella sensibilizzazione, in incontri, c'è sempre una resistenza che è individuale, familiare e collettiva. L'altra questione che ho molto seguito è quella relativa all'inclusione e all'integrazione degli stranieri in città. Anche su questo ho notato un doppio binario, quello dichiarato è di accettazione, di inclusione, di non discriminazione, diciamo il detto. Poi nel fatto ho notato che ci sono delle riserve che si individuano in fase, in questioni molto concrete. Quando una famiglia di stranieri, composta da molti figli, vanno a cercare una casa in affitto, nascono problemi. È molto difficile, non dichiarano per quale motivo coloro che hanno gli appartamenti sfitti non affittano e le persone immigrate chiaramente interpretano come una forma di riserva, chiama di esclusione. Le comunità che ci sono a Nuoro sono molto discrete, vivono serenamente, non ci sono segnali di conflitto, di rotture, di rifiuto, però c'è questa sorta di separazione, proprio che si individuano nel momento in cui le persone vanno a cercare il luogo dove poter vivere e abitare. Un altro aspetto che ho riscontrato è nel linguaggio. Le persone che si dichiarano assolutamente non accoglienti rispetto alle persone straniere, poi nel linguaggio comune, per esempio, ho sentito molto usare il termine poverini, usati dal loro punto di vista in termini positivi. E non hanno percepito che il termine poverino, esatto, poverina, bella bambina, la carezza, chi ascolta invece coglie il discriminante, perché diciamo, una discriminazione che nasce, è interiore alla cultura che abbiamo ricevuto, all'educazione che abbiamo ricevuto e di cui molto probabilmente non ci rendiamo conto. E questi aspetti sono molto rilevanti. Io l'ho notato soprattutto nelle classi di età, gli ultra cinquantenni, diciamo. Nelle fasce più basse, non lo so, dal punto di vista dei giovani, diciamo sino ai 50 anni, hanno un atteggiamento diverso nei confronti delle persone immigrate. In questo aspetto un po' contraddittorio ci sono molte associazioni a Nuoro che si occupano delle persone immigrate. In modo più o meno paternalistico, comunque gli enti le aiutano, le accompagnano, organizzano momenti di incontro, momenti di discussione. Questi sono i due temi di cui mi sono occupata ultimamente, immigrati e LGBTQ, integrazione. Anzi, su questo torno un attimo perché abbiamo fatto molte iniziative, molti incontri, e vi dirò sempre molto partecipato. Da fasce anagrafiche diverse, che vanno dai giovani ai più corsi. Possiamo parlare da persone dai 20 anni, la più anziana che è venuta all'ultimo incontro, 90 anni, di una lucidità, vi dico ragazzi, veramente che sono rimasta, tra l'altro lì ho insegnante e dirigente scolastica, dunque ha portato un contributo molto importante nella discussione. Concludendo e sintetizzando, ho potuto notare questa dimensione al lavoro, che il dichiarato è assolutamente sereno, tranquillo, poi il praticato presenta delle contraddizioni che io interpreto proprio in un termine di educazione, in termini culturali, è molto probabilmente una società che ancora si sta prendendo un'accoglienza vera, non discrimina in modo esplicito, però discrimina con comportamenti, atteggiamenti e soprattutto linguaggio di cui io ho la sensazione non ci si renda neanche conto. Sì, questo succede anche, se proprio vogliamo, nell'ambito del femminismo e della misoginia, sì, no? Esatto. In questo senso, invece, quando hai notato un cambiamento dentro la città di Nuoro, proprio nel rapporto tra i generi? Tra i generi io lo sto notando in questi ultimi anni, anche perché prima non se ne parlava. Okay. Cioè, la questione non se ne parlava, si sussurrava. Si conosceva di un certo numero persone, più che altro il concetto era l'omosessualità maschile. L'omosessualità femminile è mai presa in considerazione come se non esistesse. Negli ultimi anni, molto probabilmente, un po' che noi gay, pride, un po' dibattiti in televisione, un po' perché anche a Nuoro sono creati diversi incontri di tipo proprio culturale, in questi termini si è più aperta, però sempre in termini di ascolto e osservazione. Anche se questo, il fatto di non parlarne, la domanda che oppongo a voi che siete giovani, quando la questione non viene dichiarata e non se ne parla, è perché non esiste o perché è sottesa e ancora non è stata elaborata in modo aperto? Io credo che il problema sia più, se si riuscisse per esempio a organizzare un Gay Pride a Nuoro, in quell'occasione avremo l'occasione di capire la risposta che c'è da parte della città. E io credo che sia un vostro compito, giovani, di creare proprio, perché io per esempio, di creare una sorta di mobilitazione, di sensibilizzazione, una campagna di sensibilizzazione per discutere e per parlare. Perché se io organizzo un incontro sui temi dei diritti civili, verranno soprattutto persone, diciamo, ultra cinquantenni. Se invece voi organizzate un tema proprio sull'inclusione, riuscirete ad attrarre giovani che vanno da 20 anni, 18 anni in su, forse arriverà anche qualcuno di età più alta. Però il problema è che gli adulti non riescono a trovare gli strumenti comunicativi adatti per attrarre negli incontri la gioventù nuorese, sia essa maschile sia essa. Per cui c'è questa frattura, ho notato. Dunque, sempre parlando di approccio di genere, qual è la tua esperienza rispetto ai movimenti di liberazione della donna, diciamo, se non femministi, a Nuoro, sia negli anni 70, insomma, l'apice, e come si sono evoluti? Allora, io ricordo proprio fine anni 60, primi anni 70, a Nuoro si era creato un vasto e interessante movimento di donne, donne che già avevano esperienze politiche, sindacali e sociali molto importanti, e che negli anni 70, primi anni 70, hanno organizzato una serie di iniziative e di attività in modo da poter discutere tra di loro e coinvolgere anche i più giovani. In particolare ricordo anche perché è stato oggetto di un incontro che il 1 di agosto ho realizzato nella sede di Ibis sulla nascita dei consultori. E in quell'occasione sono venute donne 70-75 anni che hanno vissuto in prima persona. Il primo segnale concreto è stata la costituzione, la formazione di un gruppo di donne che si sono autotassate, preso in affitto un locale e istituì il primo consultorio aperto alle giovani generazioni. Donne conosciute a Nuoro, donne assistenti sociali, insegnanti, operatrici culturali. Dopo uno o due anni di consultorio, invece, siamo ai primi anni 70, il consultorio invece è diventato un ente pubblico ed è passato alla gestione della Prequinta e poi dell'ASLA. In quell'occasione, nella sede che avevano vicino alla Piazza delle Poste, era un luogo d'incontro tra donne e si discuteva, si analizzavano tutte quelle che erano le problematiche a livello sia di pensiero e che di pratica. A Nuoro hanno lasciato moltissimi segni, un segno molto importante di liberazione dalla donna, da certi modelli casa, chiesa, è nata proprio là, nel momento in cui l'istruzione è diventata obbligatoria. Con l'istruzione obbligatoria le donne sono entrate a pieno titolo all'interno delle scuole, frequentate le scuole elementari, le scuole medie, siamo a fine anni 60, le scuole superiori. Negli anni 70 c'è stata anche la liberalizzazione dell'accesso agli studi universitari, per cui tantissime donne, soprattutto delle classi sociali più povere, hanno avuto l'opportunità di frequentare l'istruzione secondaria di secondo grado, l'università, e dunque acquisire strumenti culturali potenti anche in termini di affermazione del proprio io, di io donna. La maggior parte di queste donne sono diventate insegnanti, tant'è che sarebbe interessante fare uno studio sociologico sulla percentuale di donne negli anni 60 insegnanti, e dagli anni 70 in poi. Quindi cresce il numero di insegnanti, cresce l'autoconsapevolezza e cresce anche la voglia di autodeterminarsi, prima nel lavoro, soprattutto nell'affermazione di una competenza molto forte all'interno del lavoro. Le donne si sono distinte in quegli anni, a Nuoro e a Nuorese, proprio per la competenza professionale, l'investimento nella formazione, il contatto con le comunità del continente. E praticamente c'è stato un arricchimento reciproco che piano piano ha risvegliato coscienze e ci ha portato a noi donne in quegli anni a trasferirle anche nelle nuove generazioni. Perché chiaramente sono gli anni dei decreti delegati, non so se voi li avete praticati, i decreti delegati. La scuola aperta, la partecipazione dei genitori, per cui è stato superato completamente il concetto gerarchico, direttore didattico, preside, insegnante, e poi decreti derogato aprono una scuola alla comunità, è stata creata dal punto di vista giuridico, ma in molti casi pratici una comunità educante nella quale i genitori partecipavano ai consigli di classe e leggevano il consiglio di classe del circolo ed entravano, e la maggior parte di queste persone erano donne. Per cui donne hanno cominciato ad entrare nelle scuole, le mamme, erano molto meno le figure maschili come organi di partecipazione democratica nella gestione della scuola. Per cui le donne, lasciate la casa, entravano nella scuola in una situazione di parità con le insegnanti, discutevano di educazione, di formazione, di libri di testo, di voti, di giudizi, E praticamente il sistema nazionale dell'istruzione ha fatto tantissimo da questo punto di vista della formazione e soprattutto dell'autocoscienza, perché sia come donne insegnanti, sia come mamme di alunni, di alunne che in un piano di assoluta parità discutevano con il corpo docente, tant'è che in tutti i consigli di classe, non poi non avete, c'erano quattro genitori che venivano convocati una volta al mese con tutti i docenti della classe per discutere di formazione e educazione dei propri figli. E questo come ha cambiato il rapporto col territorio? Cioè, allora questa cosa come ha modificato, diciamo, l'approccio delle donne alla vita pubblica, magari nella tua esperienza? La vita pubblica, diciamo chiaramente, dagli anni 70 ad oggi c'è stata una crescita come livello di consapevolezza e di partecipazione. Un livello di partecipazione alla vita di partito, quando esistevano partiti, agli incontri, ai seminari, agli incontri di carattere culturale. Mentre come esercizio della politica in prima persona è molto diverso. Ancora oggi, diciamo che il passaggio è stato molto graduale. Piano piano le donne hanno cominciato a entrare in corsi politiche, fare politica, entrare negli organismi dirigenti, cominciare a candidarsi, ad essere elette, e piano piano è cresciuto, lievitato